America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I'm pleased to hear that the Senate will hold votes on preventing individuals with possible terrorist ties from buying guns, and then I hope the House does the right thing. Barack Obama ad Orlando in visita ieri nel luogo dell'eccidio, in visita con i parenti delle vittime. Devo dire, è stata una visita densa di grandi emozioni, ma anche piena di sfide. E difatti Barack Obama dice, nello spezzone che vi ho fatto ascoltare, dice: spero che i senatori si impegnino e facciano la cosa giusta, possiamo fermare alcune tragedie, possiamo salvare alcune vite, ma se non agiamo vedremo ancora molti massacri come questo. Salvare così tante giovani vite è fondamentale, spero anche che la Camera faccia la stessa cosa. Ecco, non so se avete notato in questi giorni l'accelerazione con cui questa tragedia umana si è poi trasformata in una sfida politica, in un problema nazionale, in un guardarsi allo specchio per capire che cosa c'è che non funziona in questa America, soprattutto sulla questione degli armamenti, sulla facilità con cui si possono acquistare le armi. Dunque, questo appello di Barack Obama, dove può andare a parare? La cosa interessante è che c'è un minimo di movimento, perché Trump ha voluto contrarre la National Rifle Association per dirgli che lui cercherà di proporre, di appoggiare l'idea di creare dei controlli per la vendita di armi per coloro che sono nella no-fly list, cioè che non possono andare su un aereo perché sospettati di essere terroristi. Cioè, almeno facciamo quello. Anche Mitch McConnell, il capo della maggioranza repubblicana al Senato, ha detto: ci muoveremo in quella direzione. Il voto adesso è rimandato a lunedì. Però devo dire che su questo continua ad esserci un po' il muro contro muro. Perché? Perché Paul Ryan, il presidente della Camera, ha detto chiaramente che dal punto di vista dei parlamentari, dei deputati alla Camera, invece la questione non si pone. I repubblicani vogliono difendere prima di tutto l'emendamento alla Costituzione, il secondo emendamento della Costituzione, che consente a tutti, a chiunque, di avere il diritto di prendere le armi. Ecco, qui devo dire la posizione resta davvero incomprensibile e c'è un po' il senso del muro contro muro. Ma sentiamo un passaggio secondo me significativo nella dichiarazione di ieri di Paul Ryan, perché riguarda Donald Trump, ma anche altre ricadute. Sentiamo. I'll just say we represent a separate but equal branch of government. We just spent the morning talking about how valuable the separation of powers is. Ecco, avete sentito Paul Ryan, il quale ride quando un giornalista gli dice: ma come reagisce signor Ryan quando sente Trump che gli dice stai zitto, stai quieto, non parlare? E allora avete sentito che Ryan reagisce con una grande risata, dice: come dire, non c'è limite al peggio, con Trump abbiamo visto questo, ne vedremo delle belle, ne vedremo probabilmente altre ancora, quindi lo ha un po' preso in giro. Dopodiché, molto seriamente, come dire, ha espresso un'opinione importante, ha detto: attenzione però, perché Trump non può credere naturalmente che pur accedendo alla presidenza possa fare quello che vuole, perché in questo paese c'è la separazione dei poteri, lui fa il suo lavoro, noi facciamo il nostro e certamente non mi sento su un livello inferiore rispetto al presidente, a ognuno il suo mestiere. Ecco, giustissimo. Ryan ha fatto bene a chiarire che Donald Trump, e questo è rassicurante anche per noi, anche se andasse alla Casa Bianca, avrà i check and balances tipici della democrazia americana, che sono una garanzia per tutti, non solo per gli americani, ma naturalmente anche per noi. Ecco però che emerge il limite, perché se avere la propria autonomia di potere significa fare sempre il muro contro muro, allora alla fine c'è qualcosa che non torna anche per il signor Ryan. Perché non ascolta Mitch McConnell quando dice facciamo una proposta di legge che possa funzionare per tutti? Perché fare il muro contro muro non è produttivo, ci sono delle responsabilità nei confronti dei propri cittadini, avere l'autonomia di potere significa anche trovare un compromesso e collaborare con tutte le parti che condividono questi poteri, ad esempio nel prevenire la vendita di armi a personaggi pericolosi. Save the little bat that flew so softly through the evening. Ecco, qui avete sentito Patrick Fitzgerald, un cantante inglese, un artista, che legge dei brani dall'Ulisse di James Joyce. Perché? Perché ieri era il 16 giugno e il 16 giugno 1904 è la giornata in cui il protagonista del libro di James Joyce, Leopold Bloom, ha la sua Odissea. Ecco, l'Ulisse di Joyce è considerato uno dei romanzi più importanti della letteratura modernista del XX secolo, è stata una tappa fondamentale nell'evoluzione del romanzo appunto modernista, e porta in primo piano il soggetto, la sua coscienza, i suoi pensieri, il tempo e lo spazio dell'Odissea appunto di Leopold Bloom, che vaga per le strade di Dublino in questa giornata, il 16 giugno del 1904, e arriva poi alla fine a casa dopo questa lunga, faticosa, impossibile nata, ripercorrendo un'avventura non dissimile dal punto di vista dell'impegno dei 20 anni che ha passato Ulisse per tornare a casa. Ecco, è stata davvero una grande festa popolare, la gente per strada, non c'erano preoccupazioni di nessun genere, non c'erano guardie armate, insomma, come vi dicevo, la vita va avanti, come mi ha detto Colm McCann, che è uno dei più grandi scrittori contemporanei, ha vinto il National Book Award nel 2009 con il romanzo, in italiano, è tradotto questo romanzo in 35 lingue, Let the Great World Spin, in italiano Questo bacio vada al mondo intero. McCann è irlandese, arrivato negli Stati Uniti nel 1986, dunque c'è questo elemento anche molto interessante di movimento, di immigrazione, di gente che arriva, di apertura, di accoglienza, e dunque questa festa per strada tra l'altro che si tiene, si celebra un po' dappertutto, si celebra anche da noi in Italia, a Trieste naturalmente, dove Joyce ha scritto buona parte del suo libro, c'è anche il museo di Joyce a Trieste, a Genova dove dalle 9 fino a tarda notte volontari hanno letto passi di Joyce, proprio come li hanno letti qui a New York, downtown, e a Genova le letture si sono tenute in ben 18 punti della città vecchia. E dunque sul piano simbolico mi sembrava molto importante raccontarvi di questa storia, perché c'è, come dire, un legame simbolico che va oltre i confini, che consente di essere riuniti attorno all'esperienza di una persona che si domanda che cosa succederà della sua vita nel momento in cui stiamo riflettendo ancora delle conseguenze di questo tragico attacco di Orlando. Sentiamo come ci interpreta questo momento e questa situazione proprio Colm McCann, che era qui a New York a questa recitazione. One has to be able to understand that life must move on. Literature exists, stories exist, and the thing about it is that stories legislate the world. Ecco, avete sentito Colm, dice: la vita continua anche di fronte a tragedie orribili come quella di Orlando. Bisogna comprendere che la vita deve andare avanti, la letteratura continua ad esistere, questo è il punto, sono le storie a definire il mondo, e le storie delle persone morte a Orlando si devono ora fondere con quelle delle persone che sono qua adesso a New York a festeggiare in fondo la vita. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta dopo una settimana, devo dire, intensa e drammatica, e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!